Cari fratelli e sorelle, proseguendo il nostro cammino tra i padri della Chiesa, veri astri che brillano da lontano, nel nostro incontro di oggi ci accostiamo alla figura di un Papa che nel 1754 fu proclamato da Benedetto XIV dottore della Chiesa. Si tratta di San Leone Magno. Come indica l'appellativo presto attribuitogli dalla tradizione, egli fu davvero uno dei più grandi pontefici che abbiano onorato la sede romana, contribuendo moltissimo a rafforzarne l'autorità e il prestigio. Primo vescovo di Roma a portare il nome di Leone, adottato in seguito da altri 12 sommi pontefici, è anche il primo Papa di cui ci sia giunta la predicazione, da lui rivolta al popolo che gli si stringeva attorno durante le celebrazioni. È spontaneo pensare a lui anche nel contesto delle attuali udienze generali del mercoledì, appuntamenti che negli ultimi decenni sono divenuti per il Vescovo di Roma una forma consueta di incontro con i fedeli e con tanti visitatori provenienti da ogni parte del mondo. Leone era originario della Tuscia, divenne diacono della Chiesa di Roma intorno all'anno 430 e col tempo acquistò in essa una posizione di grande rilievo. Questo ruolo di spicco indusse nel 440 Calaplacidia, che in quel momento riceveva l'impero d'Occidente, a inviarlo in Gallia per sanare una difficile situazione. Ma nell'estate di quell'anno il Papa Sisto III, il cui nome è legato ai magnifici mosaici di Santa Maria Maggiore, Sisto III morì e a succedergli fu eletto proprio Leone, che ne ricevette la notizia mentre stava appunto svolgendo la sua missione di pace in Gallia. Rientrato a Roma, il nuovo Papa fu consacrato il 29 settembre del 440. Iniziava così il suo pontificato, che durò oltre 21 anni, che è stato senza dubbio uno dei più importanti nella storia della Chiesa. Alla sua morte, il 10 novembre del 461, il Papa fu sepolto presso la tomba di San Pietro. Le sue reliquie sono custodite anche oggi in uno degli altari della Basilica Vaticana. Quelli in cui visse Papa Leone erano tempi molto difficili. Il ripetersi delle invasioni barbariche, il progressivo indebolirsi in Occidente dell'autorità imperiale e una lunga crisi sociale avevano imposto al Vescovo di Roma di assumere un ruolo rilevante anche nelle vicende civili e politiche. Lo stesso succede un secolo e mezzo più tardi nel pontificato di San Gregorio Magno. Ciò non mancò ovviamente di accrescere l'importanza e il prestigio della sede romana. Celebre è rimasto soprattutto un episodio della vita di Leone. Esso risale al 452, quando il Papa a Mantova, insieme a una delegazione romana, incontrò Attila, capo degli Unni, e lo dissuase dal proseguire la guerra d'invasione con la quale ci aveva devastato le regioni nord-orientali dell'Italia e così ha salvato il resto d'Italia. Questo importante avvenimento divenne presto memorabile e rimane come un segno emblematico dell'azione di pace svolta dal pontefice. Non altrettanto positivo fu purtroppo 3 anni dopo l'esito di un'altra iniziativa papale, segno comunque di un coraggio che ancora ci stupisce. Nella primavera del 455 Leone non riuscì infatti a impedire che i vandali di Genserico, giunti alle porte di Roma, invadessero la città indifesa, che fu saccheggiata per 2 settimane. Tuttavia il cesto del Papa, che inerme e circondato dal suo clero, andò incontro all'invasore per scongiurarlo di fermarsi, dico il cesto del Papa impedì almeno che Roma fosse incendiata e ottenne che dal terribile sacco fossero risparmiate le basiliche di San Pietro, di San Paolo e di San Giovanni, nelle quali si rifugiò parte della popolazione terrorizzata. Conosciamo bene l'azione di Papa Leone grazie ai suoi bellissimi sermoni, ne sono conservati quasi 100 in un splendido e chiaro latino, e grazie alle sue lettere, circa 150. In questi testi il pontefice appare in tutta la sua grandezza, rivolto al servizio della verità nella carità, nello stesso tempo, attraverso un esercizio assiduo della parola che lo mostra nello stesso tempo teologo e pastore. Leone Magno, costantemente sollecito dai suoi fedeli del popolo di Roma, ma anche della comunione tra le diverse chiese delle loro necessità, fu sostenitore e promotore instancabile del primato romano, proponendosi come autentico erede dell'Apostolo Pietro. Di questo si mostrarono ben consapevoli i numerosi vescovi, in gran parte orientali, riuniti nel Concilio di Calcedonia. Tenutosi questo concilio nell'anno 451, con i suoi 350 vescovi partecipanti, questo concilio fu la più importante assemblea fino ad ora celebrata nella storia della Chiesa. Calcedonia rappresenta il traguardo sicuro della cristologia dei 3 concili ecumenici precedenti, quello di Nicea del 325, quello di Costantinopoli nel 381 e quello di Efesi del 431. Già nel VI secolo, questi 4 concili, che riassumono la fede della Chiesa antica, vennero infatti paragonate ai 4 Vangeli. È quanto afferma Gregorio Magno in una famosa lettera in cui dichiara, cito, di accogliere e venerare come i 4 libri del Santo Vangelo, i 4 concili, perché su di essi, come su una pietra quadrata, si eleva la struttura della santa fede. Il concilio di Calcedonia, nel respingere l'eresia di Eutiche, che negava la vera natura umana del Figlio di Dio, il concilio affermò l'unione nella sua unica persona, senza confusione, senza separazione delle 2 nature, umana e divina. Questa fede in Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, veniva affermata dal Papa in un importante testo dottrinale indirizzato al Vescovo di Costantinopoli, il cosiddetto Tomo a Flaviano, che, letto a Calcedonia, fu accolto dai Vescovi presenti con un'eloquente acclamazione, della quale è conservata notizia negli atti del Concilio. Pietro ha parlato per bocca di Leone, proruppera una voce sola i padri conciliare. Soprattutto da questo intervento e da altri compiuti durante la controversia cristologica di quegli anni risulta con evidenza come il Papa avvertisse con particolare urgenza le responsabilità del successore di Pietro, il cui ruolo è unico nella Chiesa perché, cito, a un solo apostolo è affidato ciò che a tutti gli apostoli è comunicato. Così afferma Leone in uno dei suoi sermoni per la festa di San Pietro e Paolo. E queste responsabilità il Pontefice seppe esercitare in Occidente come in Oriente, intervenendo in diverse circostanze con prudenza, fermezza e lucidità attraverso i suoi scritti e mediante i suoi legati. Mostrava in questo modo come l'esercizio del primato romano fosse necessaria allora come lo è oggi per servire efficacemente la comunione, caratteristica dell'unica Chiesa di Cristo. Consapevole del momento storico in cui viveva e del passaggio che sta avvenendo dalla Roma pagana a quella cristiana in un periodo di profonda crisi, Leone Magno seppe essere vicino al popolo e ai fedeli con l'azione pastorale e la predicazione. Animò la carità in una Roma provata dalle carestie, dall'afflusso dei profughi, dalle ingiustizie e dalla povertà. Contrastò le superstizioni pagane e l'azione dei gruppi manichei. Legò la liturgia alla vita quotidiana dei cristiani. Per esempio, ha unito la pratica del digiuno alla carità e all'elemosina, soprattutto in occasione delle quattro tempora, che segnano nel corso dell'anno il cambiamento delle stagioni. In particolare, Leone Magno insegnò ai suoi fedeli che la liturgia cristiana non è il ricordo di avvenimenti passati, ma è l'attuazione di realtà invisibili che agiscono nella vita di ognuno. Così sottolinea in un sermone a proposito della Pasqua, da celebrare in ogni tempo dell'anno non tanto come qualcosa di passato, quanto piuttosto come un evento del presente. Tutto questo rientra in un progetto preciso, insiste il Santo Pontefice. Come infatti il Creatore ha animato con il soffio della vita razionale l'uomo plasmato dal fango della terra, così dopo il peccato d'origine ha inviato il suo Figlio nel mondo per restituire all'uomo la dignità perduta e distruggere il dominio del diavolo mediante la vita nuova della grazia. E questo è il mistero cristologico e al quale San Leone Magno, con la sua lettera al Concilio di Efeso, ha dato un contributo efficiente e essenziale e ha confermato tramite questo concilio in quel tempo per tutti i tempi quanto disse San Pietro nel momento di Cesarea Filippi. Ha detto: con Pietro e come Pietro tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, Dio e uomo. E nella forza di questa fede cristologica era un grande portatore di pace e di amore, e così ci mostra la vita: nella fede impariamo la carità e impariamo quindi con San Leone Magno credere in Cristo, vero Dio e vero uomo, e di realizzare questa fede ogni giorno nell'azione della pace e nell'amore. per il prossimo. Grazie.